Gli avvoltoi e i piccioni, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Nacque contesa fra gli uccelli un giorno, per invidia di Marte, a cui sorrise i sereni turbar campi dell'aria. Non parlo io già dei teneri uccellini che riconduce a noi in marzo o d'aprile, e che nelle ombre dei boschetti ameni con l'esempio e col canto a noi maestri sono d'amor. Nemmen parlo di quelli che la madre d'amore aggioga al carro, ma canto gli avvoltoi, torbido popolo dal becco adunco e dagli unghiuti artigli, che per cagion di un cane, si racconta, fecer la terra del lor sangue rossa. Se io volessi narrar ad uno di quella guerra gli accidenti e i casi, chi voce mi daria? Molti perirono dei campi e tanti eroi morser la polvere che Prometeo sperò dall'alto Caucaso che fosse per finir la lunga pena. Bello e triste a veder era la lotta delle due parti e il numero dei morti e il valor e l'inganno e la sicura arte di guerra, onde cercar le schiere di farsi danno e che infinite all'orco generose travolse alme d'eroi. A mille, dal sereno giorno piovean gli spiriti in quel rinchiuso e nero regno dell'ombre, infin che di pietade si strinse il cor a un popolo vicino, popolo gentil dal colle iridescente e dai teneri affetti. A metter pace uscirono i colombi messaggeri, e si ben adoperarono che i patti firmarono gli avvoltoi dei becchi adunchi. Ahimè, la pace ritornò di danno ai colombi pacifici, che stretti dal comune nemico, a cento perir nell'unghie e in becco agli avvoltoi. Infelici e imprudenti, a cui dei tristi piacque aggiustare le selvagge imprese. Dividi i tristi ed avrà pace il mondo, o vedrai se concordia le assicura. Credila a me, sempre soffrirne i buoni. Fine della favola Gli avvoltoi e i piccioni. Questa registrazione è di dominio pubblico.